Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30, ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano è la sigla di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta qui dai studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e andremo avanti fino alle ore 21.30 e il programma viene condotto da una parte, anche da una parte dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste. E andiamo ora all'ascolto invece di questa band che vi presento, una band giapponese. Loro sono della zona di Yokohama, sono i Systematic Death, e da un loro album del 2009 ci ascoltiamo un paio di brani. We'll be right back. Sì, un saluto anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zernis Magnetics, e ne approfitto anche per così augurarvi un 2023 di guerra ai palazzi e pace alle capanne, visto che io non sono stata in radio dall'inizio dell'anno. E vabbè, con naturalmente il pensiero e il così in questi giorni è sempre rivolto e sempre concentrato sulla vicenda di Alfredo Cospito e sulle sue condizioni, insomma, sulla sua lotta estrema e importante che stanno portando avanti, e anche su concentrata anche sugli altri compagni che lo sostengono, beh, Ivan e poi altri compagni anche internazionalisti in altre parti, non in Italia, in Grecia ad esempio. E sì, il pensiero è chiaramente sempre concentrato su di loro. E oggi vorrei così iniziare gli interventi politici parlando di una vicenda, sempre una vicenda carceraria, che però riguarda una prigioniera comune, chiamiamola così. E allora, la storia si svolge a Bari, in un quartiere popolare che si chiama Quartiere Libertà. In questo quartiere appunto vive Lina, una donna proletaria di 76 anni, insieme a suo figlio. E vabbè, durante una discussione condominiale, insomma, così di vicinato, la discussione trascende un po'. Risultato, praticamente Lina viene accusata di lite, praticamente di aver causato, comunque insomma di aver fatto trascendere la lite, e quindi finisce ai domiciliari a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Però quindi un provvedimento cautelare, insomma, di domiciliari. Probabilmente questa signora esce di casa, insomma, e quindi viene considerata un'evasa, e quindi viene portata prima al carcere di Trani e poi al carcere di Lecce. Per fortuna anche il figlio, per dire, viene a sapere di questa sua incarcerazione al fatto compiuto quando torna in quartiere, insomma, dai vicini di casa stessi. Per fortuna si crea un gruppo comunque solidale, diciamo, all'interno del quartiere, quindi che cercano insomma di si mobilitano un po' per capire quello che sta succedendo, e anche per far sì che Lina venga liberata, e diventa, insomma, questa una battaglia quindi per la sua liberazione. Parliamo di dicembre. Lina Pinto, così si chiama, è stata arrestata, la sua vicenda carceraria parte, da quello che ho capito, da fine ottobre. E questa vicenda è importante perché è abbastanza anche paradigmatica di come funziona la cosiddetta giustizia in questo paese, cioè appunto di come le carceri siano delle discariche sociali, e dove puoi finire anche per una roba, perché magari non ne puoi più, perché magari hai perso le staffe, niente di che, ma non hai gli strumenti economici o sociali per tirartene fuori, e quindi finisci in questo pozzo senza fondo dal quale poi è difficile riemergere. E la vicenda di Angela, detta Lina Pinto, è stata rimbalzata dalla rete Mapuche, la quale appunto si occupa di prigionieri politici del Cile e dell'Argentina, appunto i Mapuche, e ha preso a cuore, diciamo, questa battaglia, e appunto ha lanciato una mobilitazione addirittura internazionale per il 16 gennaio prossimi, per chiedere fortemente, insomma, la liberazione di Lina Pinto, ma insomma la libertà per tutte e tutti gli imprigionati. Vi vado a leggervi una parte della chiamata alla mobilitazione. Ci dicono i compagni di Rete Mapuche: 16 gennaio, mobilitazione per la libertà di Lina Pinto, dalla Puglia al Cile, tutte e tutti fuori dalle galere. Da metà ottobre Angela Pinto è stata buttata in carcere senza tener conto dell'età avanzata, 76 anni, e delle svariate patologie, in parte legate anche all'età di cui soffre. Da quel momento su di lei è calato l'oblio del sistema giudiziario e carcerario che contraddistingue l'infamia del nostro bel paese. Il primo gennaio è stata ricoverata per un malore. Il tempo passa e le sue condizioni psicofisiche si aggravano, come spesso succede a chi è privato di libertà, perché il carcere è questo, annichilimento dell'essere umano. Tutte le pressioni fatte alle istituzioni cittadine per fare attivare la macchina del welfare si sono trasformate in promesse disattese. A nessuno importa di Lina. Nessun impiegato dello Stato sembra voler guardare negli occhi Lina e ascoltare la sua storia. Come il giudice, automa senza scrupoli né umanità, che continua a rigettare ogni istanza di scarcerazione o di attenuazione delle misure cautelari, perché Lina è reclusa nel carcere di Lecce, senza nemmeno essere stata condannata. Di fatto hanno deciso di ammazzarla in carcere. In Italia, se sei povero, muori in carcere. Lo Stato di diritto, di cui tanto ci vantiamo col resto del mondo, è illusorio. La democrazia, che siamo bravissimi a esportare con le bombe, non è diversa da quella di alcuni paesi ritenuti regimi dittatoriali dall'opinione pubblica. La stessa persecuzione vissuta dai Mapuche, dai curdi, dai palestinesi e da tanti altri popoli oppressi, oggi si è concretizzata amaramente anche in Italia. E lo vediamo ad oggi anche nella prigionia politica di Alfredo Cospito. Come rete internazionalista e anticarceraria chiamiamo alla mobilitazione internazionale in solidarietà con Lina. Il giorno 16 gennaio 2023 dalle 8:30 saremo presenti fuori dal Tribunale Penale di Bari, dove si svolgerà l'udienza e dove faremo sentire forte il nostro grido ribelle. Chiediamo a movimenti, collettivi, associazioni e chiunque percepisca il dolore di questa ingiustizia di essere per strada o fuori alle sedi che rappresentano la malvagità dello Stato italiano, ognuno con le proprie pratiche di dissenso. Solo la lotta paga, la solidarietà è un'arma, la solidarietà è una prassi, usiamole. Fuori tutte e tutti dalle galere, libertà per Lina. I'll have a quiet word with your mates. Oh, they'll be alright, they'll have enough on their plate. I'll put a bit in their mouth, you just pull hard on the reins. They'll do anything for you and they won't complain. You'll be so much better off, I say, you can share my paradise. Just sign my piece of paper and I'll organize your life. And it never fails, it does the trick, it works every time. So me and my dear wife and the family's doing fine. Great-granddad got his dukedom when slavery was abolished. Dear old dad became a viscount when the empire was finished. But times have changed for the better with freedom of choice. We're a thousand times richer, QED is master's voice. Education enforces this crap, where women work in the open, yet live in a trap. There's one solution, and this is it. The nuggets on the gramophone are kind of shit. it's not doing anybody any harm. But I say, I think it's a nice sound. It's a happy sound, and it's not doing anybody any harm. There are no mean people in the world. Just thirsty ones. No really bad guys. Just guys who are hot and tired and bugged. Coca-Cola can take care of them. There's something good-natured about the taste of Coke. A sort of get-the-chip-off-your-shoulder niceness that lets the real you shine through. In fact, you could say the special kind of goodness in Coke brings out the goodness in people. Dalla vicenda di Lina Pinto e di questa assurda sua carcerazione e anche da questa giusta proposta di mobilitazione per la sua liberazione, così ho preso spunto per cercare un po' così qualche altra storia di detenzione di donne. Vi propongo come prima lettura così questa testimonianza di Rossa Tidei, una compagna dei Nuclei Armati Proletari, che è intervenuta a un incontro a Barcellona in Catalogna nel 2019, un incontro tra donne appunto che hanno praticato la lotta armata e che ha dato poi origine a un libro, insomma, che si chiama Sovvertendo l'ordine patriarcale. La Rossa Tidei appunto ci racconta, questo, il suo intervento è molto lungo, così racconta anche di tutta la situazione prima del carcere e poi però ci racconta appunto di quando è stata arrestata. Quando sono stata arrestata a 22 anni, come è successo a tutte noi, La prima cosa è stata mettermi in isolamento, in quel luogo dove non sai nulla di quello che sta succedendo fuori, non ricevi notizie, eccetera. Quando sono uscita dall'isolamento, nella prigione metropolitana di Rebibbia, era un periodo di aspre rivolte all'interno delle carceri. Siamo salite sui tetti e come punizione siamo state trasferite in varie carceri italiane. Passò molto tempo prima che per la prima volta i miei genitori venissero a trovarmi. Ricordo che mia madre mi chiese allarmata: «È vero, è vero?» Pensavo che stesse parlando della scelta della lotta armata, ma ho scoperto che si stava riferendo al fatto che dopo il mio arresto sono state pubblicate diverse notizie rosa sul mio conto. Io, per conto dell'organizzazione, avevo affittato diverse case, i cosiddetti covi. Quando queste case sono state trovate, sui giornali veniva dato risalto all'aver trovato completini intimi osé, con cui dicevano che io ricevevo i compagni. Dato che ero giovane e poiché non si poteva accettare che una donna potesse imbracciare le armi perché credeva fermamente in quella lotta, avevano costruito quel personaggio insieme a fantasie, a fantasiose storie di armi e sesso, strumentalizzando anche il fatto che fossi una madre single. Con quella storia, infatti, hanno cercato di portarmi via mia figlia, dato che ero una prigioniera e che stavo nella lotta armata, così ho dovuto firmare l'affidamento di mia figlia ai miei genitori. Quando sono stata arrestata nel 76 era la prima fase della lotta armata, quella della propaganda armata. Oltre a noi, nello stesso carcere, c'erano anche 3 o 4 donne delle BR. Dato che non c'erano ancora prigioni speciali, il primo anno ho avuto 11 trasferimenti in 13 mesi. Non ti facevano rimanere nella stessa prigione troppo a lungo, per impedirti di costruire relazioni con altre donne. Inoltre, nel mio gruppo, in app, gli obiettivi concreti della lotta erano proprio le prigioni, i tribunali e la repressione. Per questo motivo ci controllavano più delle altre delle BR, la cui lotta era maggiormente incentrata sulla questione della classe operaia. Le massime misure di controllo sono state applicate molto di più nei nostri confronti. Abbiamo sempre avuto un controllo speciale nelle celle singole. Prima delle prigioni speciali, il metodo per reprimerci il più possibile era quello della continua dispersione, con le evidenti conseguenze per le famiglie, obbligate a un continuo su e giù per l'Italia. A quel tempo, inoltre, molte carceri femminili erano gestite dalle suore, alle quali veniva affidata la nostra rieducazione. Per dare un esempio di cosa significano le carceri speciali, ogni volta che entravi dovevi passare all'ufficio matricola in cui fornivi le impronte digitali, tutti i tuoi dati e tutte le tue informazioni. Nel momento in cui l'ho fatto e dovevo dare il nome e il cognome di mia figlia e hanno visto che il suo cognome era uguale al mio, mi hanno guardata con pena dicendomi: «Capiamo, ci dispiace», come se dovessi essere per forza la poverina sedotta e abbandonata, il che mi ha fatto molto arrabbiare. Era il mio atto di libertà e che alcune guardie arrivassero a sentirsi dispiaciute mi ha fatto incazzare di brutto. Il primo carcere speciale femminile in cui sono stata si trovava a Messina, in Sicilia. Era un piccolo carcere che veniva normalmente utilizzato per problemi di mafia. Le prigioni speciali erano appena state aperte, 6 per uomini e 1 per donne, in Sicilia appunto, e il 16 luglio del 1977 trasferirono tutte le donne e gli uomini prigionieri politici o ribelli in queste prigioni speciali. Una delle prime condizioni, probabilmente una delle più forti, fu il vetro durante la comunicazione con i membri della famiglia. Questo in pratica ha significato che per 5 anni non ho potuto toccare mia figlia. Quando arrivavamo in Sicilia, il carcere non era nemmeno finito. All'interno le condizioni erano molto diverse dalle altre carceri ed è stato un grande cambiamento per tutte noi. Non potevamo avere un pettine, dovevamo sempre chiederlo. Nel cortile doveva esserci un carceriere per ogni prigioniera, in caso contrario non ti aprivano le porte. Per fare altri esempi, eravamo tutte prigioniere politiche, ma c'erano anche 3 prigioniere comuni che avevano lasciato dentro per svolgere le varie mansioni, fare la spesa, cucinare, eccetera. Anche loro però erano soggette alle condizioni del carcere speciale e due sono finite in manicomio poiché non potevano sopportare quel grado di repressione e confinamento che implicava stare lì. La battitura, per esempio, che facevano i carcerieri colpendo le sbarre ogni 3 ore, giorno e notte, per verificare che non avessimo rotto nessuna sbarra. Un aspetto importante a quei tempi per riuscire a fronteggiare certe condizioni era la possibilità di parlare di un noi, di un gruppo, senza sentirti sola contro il nemico. Il carce, il sapere che c'era sempre qualcuno su cui poter contare. Siamo abituate a fare tutto assieme, ma a quel tempo era ancora più importante ricordarlo, perché se eri sola, dentro un corpo di donna, le molestie sessuali da parte di polizia e qualche avvocato erano costanti e anche i pestaggi dei carcerieri. Questi colpi, molte volte alla pancia, al petto, acquisivano ovviamente un significato diverso sul corpo di una donna. Nel 1981 c'erano diversi gruppi armati in Europa e il sistema repressivo cercava di trovare strategia per tutti loro. In Italia si decise di aprire la prigione di Voghera, una prigione tecnologica, dove c'erano molte telecamere e sensori nei corridoi. E tu passavi a seconda dei colori dei semafori che ti permettevano o impedivano di avanzare. Ogni volta che c'era una porta aperta suonava sempre una sirena. È importante sottolineare che decisero di testare questo nuovo modello in un carcere femminile, inteso come spazio maggiormente manipolabile. Quando arrivammo eravamo io, Franca Salerno e una compagna dei nuclei milanesi. Questa prigione speciale era un posto desolato come lo era la città, con molta nebbia, zanzare, nel mezzo di una brutta pianura. C'erano solo 6 giorni di sole all'anno, tutto il resto era nebbia e inquinamento. Quando siamo arrivate abbiamo trovato un corridoio fatto dalle carceriere e che abbiamo riconosciuto tutte perché lì avevano concentrato il peggio di tutte le guardie donne delle diverse carceri in Italia. Ci hanno fatto spogliare, obbligate a farci la doccia e poi a fare flessioni, che consistevano nel farle mentre mettevano le loro facce sotto di te in cerca di qualcosa. Il punto non era farci fare la doccia perché siamo sporche, ma per pura pressione psicologica. Ci hanno dato l'uniforme, era l'unico carcere in Italia dove ti davano un uniforme molto brutta, tra l'altro, di colore militare, con calzamaglia pesante e monacale e alcune mutandine molto alte che avevano progettato appositamente per le prigioniere di quella struttura. Le scarpe erano di cartone, a me, che avevo il 37, mi davano il 39. Non avevi nulla, non potevi comprare niente e potevi solo mangiare quello che ti davano. Quando uscivamo nel cortile per l'ora d'aria faceva molto freddo e non ci davano cappotti, quindi facemmo lo stesso dei prigionieri dell'IRA, cioè dell'esercito repubblicano irlandese: prendere le coperte e farne un poncio. Quando ci videro con le coperte, le carceriere volevano prendercele e farcele pagare e noi rispondemmo: se non le paghiamo ve le tenete, ma se le paghiamo sono nostre e non potete prendercele. Questo esperimento, chiamato privazione sensoriale, era un esperimento molto studiato. Anche giapponesi e tedeschi sono venuti a vedere come funzionava. L'idea era che non servissero troppi funzionari. Tutto poteva essere fatto da telecamere di sorveglianza e sensori. Avevamo 1 ora d'aria al giorno, in un cortile recintato anche sopra. Quest'ora poteva svolgersi tra le 8:30 e le 16:30, ma non sapevi mai quando era il tuo turno. Dovevi essere lì pronta. E quando la luce diventava verde, potevi passare. E quando diventava rossa, dovevi già aver passato la porta, altrimenti si sarebbe chiusa. Se non uscivi subito al verde, rimanevi nella cella fino al giorno successivo. Inoltre, tutte le carceriere avevano ricevuto corsi speciali di arti marziali e le prigioniere erano rinchiuse, senza sapere chi fosse la detenuta accanto a loro. Tuttavia, abbiamo trovato modi di organizzarci e comunicare, che erano completamente al di fuori del controllo di chi ci sorvegliava. Comunicavamo da cella a cella attraverso il tubo del bidet. In quel tubo ci siamo raccontate mezza vita e la prima volta che ci siamo incontrate è stato 6 mesi dopo. Non ci eravamo mai viste in faccia, ma conoscevamo già tutto l'una delle altre. Per comunicare tra un piano e l'altro del carcere usavamo il filo di una coperta, cui legavamo a un'estremità lo spazzolino da denti per fare da contrappeso e all'altro un gancio con un foglio di carta con su scritto il messaggio. Lo calavamo attraverso le sbarre e una volta arrivato a destinazione la compagna lo apriva, lo leggeva, lo ingoiava e rispondeva usando lo stesso filo. In qualche modo tutto questo era divertente perché le carceriere non capivano come potessimo trovare un modo per comunicare con quel poco che avevamo e con tutti i limiti che ci imponevano. Questo è il motivo per cui penso sia importante affermare che l'idea che quando si entra in prigione tutto finisca, come una specie di buco nero dove finisce la vita, o almeno si ferma, è un'idea sbagliata. Dentro vivi di tutto, le tue gioie, le tue disgrazie, i tuoi amori e il tuo dolore. Vivi la tua rabbia e le frustrazioni, vivi tutto ciò che puoi vivere, anche se con una libertà molto limitata. Ma vivi una realtà che in qualche modo è intensa e ricca di cose. Ci siamo organizzate e anche divertite molto. Potrei raccontarvi un migliaio di aneddoti, specialmente riguardanti quei modi in cui eravamo solite organizzarci e ribellarci contro i divieti che ci imponevano. Uno di questi è quando abbiamo usato le macchinette da caffè nelle rivolte per creare dispositivi esplosivi. Ci proibirono di avere queste macchine da caffè e cambiamo strategia. È stato divertente anche non smettere di cercare alternative per continuare a ribellarci e anche quando ci portavano via gli strumenti, riuscivamo sempre a escogitare qualcosa di nuovo. E intanto ci stiamo ascoltando questa band in sottofondo, che casualità vuole che pure questa sono giapponese, questa band è una band che si chiamano Last, e il loro album è Better Than To Do Nothing, datato 2015. Mentre volevo dire che prima, durante gli interventi in sottofondo, sentivamo la band e inglese Chumbawamba, da uno dei loro album d'esordio, datato 1986, quando appunto era appena nata come band, molto vicina all'ambiente anarcho-punk, e comunque band che i Chumbawamba, che ha durato 30 anni, ovvero dall'82 al 2012. Allora, la compagna Rossa Tidei dei NAP ci raccontava la sua esperienza di arresto e di prigionia, e valorizzava insomma l'importanza della vicinanza tra detenute, del ritrovarsi in un noi, diciamo, del non isolamento e della comunicazione anche di queste forme fantasiose, insomma creative, di appunto mantenere lo stesso la comunicazione, il contatto e la vicinanza nonostante le proibizioni e le vessazioni del carcere speciale. Nel frattempo, con il passare degli anni, le restrizioni però della differenziazione penitenziaria si sono inasprite, e appunto arriviamo al discorso del 41 bis. Così brevemente vorrei dare un piccolo aggiornamento sulla compagna Nadia Lioce, che si trova al 41 bis dal 2006 e quindi vive questa situazione di isolamento da quell'anno. E allora, le caratteristiche del regime di 41 bis a cui anche è sottoposto anche Alfredo, le abbiamo dette tante volte: il discorso della cella singola, dell'impossibilità ad avere accesso a spazi comuni, della limitazione della possibilità di andare all'aria rispetto agli altri detenuti, l'impossibilità di vedere qualsiasi detenuto che non siano quei due o tre che decide l'amministrazione penitenziaria, e il discorso di non poter tenere le fotografie nemmeno insomma dei propri cari, e la sorveglianza costante, capillare, da parte di questo corpo di polizia penitenziaria, i GOM, che ha diciamo totale arbitrarietà, insomma libertà di movimento totale, la limitazione dei colloqui con i familiari e con gli avvocati, l'impossibilità di avere contatti fisici con chi viene a colloquio, in quanto il contatto fisico è impedito da un vetro divisorio, e avanti, insomma, la censura in entrata e in uscita, il fatto che comunque anche la posta in entrata sparisce, non viene nemmeno consegnata, e la proibizione di tenere oggetti personali. Allora, Nadia Lioce, appunto, in isolamento dal 2006, in base al regolamento del 41 bis, può godere delle 2 ore d'aria in compagnia di una sola detenuta, sempre la stessa scelta dell'istituto, se non che succede che la detenuta che è stata assegnata alla Nadia Desdemona Lioce è stata a lungo malata e quindi non usciva dalla cella. Risultato che per oltre un anno la compagna ha trascorso il tempo riservato alla socialità in rigorosa solitudine. E poiché ha diritto a un'ora di colloquio al mese con i familiari e in caso di bisogno a 2 ore al mese con i propri avvocati, in pratica in un anno solare ha potuto dialogare con qualcuno solamente per 15 ore in totale, in tutto l'anno. E questa situazione di isolamento e di deprivazione le ha provocato uno stato di isolamento psicologico che le impedisce di poter discorrere normalmente più di qualche minuto quando riceve la visita della madre o della sorella. Un'altra vessazione riguarda le frequenti perquisizioni della sua cella, durante una delle quali gli agenti di polizia penitenziaria le hanno sequestrato una mole di documenti, lettere e giornali che Nadia aveva raccolto e ordinato per mesi, arrivando a portarle via anche un laccetto portaocchiali ottenuto da una striscia di stoffa, laccetto che non era previsto dal regolamento. Allora, queste cose agghiaccianti veramente che ci fanno maledire con tutta la forza che è possibile questo regime e tutti i carcerieri, questo regime di 41 bis, ogni carcere e ogni carceriere. Queste cose agghiaccianti evidentemente vengono inflitte con l'obiettivo di piegare la volontà di chi lotta e ha lottato e di mandare anche un segnale forte, per usare un eufemismo dissuasivo, a chi fuori lotta ancora. E questa cosa, insomma, è importante tenerla ben presente e non lasciarla passare. E cercare anche fuori, anche noi che siamo fuori, di non cedere alla tentazione anche di impaurirsi. Guarda, ne vi dà due spade, ricomincia a riattare! Ecco, torniamo in voce. Allora, siamo sempre su Zernis Magnetics, programma radiofonico curato dall'Assemblea Permanente, da una parte e dall'altra, dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e di Trieste. E allora, cambiamo un attimo argomento, ma insomma rimaniamo sempre in una dimensione distopica. Allora, diciamo che oltre 30 anni fa mi è capitato di leggere un libro tra l'altro che era rivolto agli adolescenti, che si intitola Nato nel 1999, quindi insomma in realtà vabbè, ne sono passati di anni anche da quella, era una data futuribile ma ormai, e insomma in questo libro praticamente si parlava di bambini concepiti in uteri artificiali, quindi fuori dal corpo femminile, bambini che poi venivano per varie vicissitudini abbandonati al loro destino e quindi venivano poi adottati da genitori, insomma, adottivi appunto, che erano praticamente una specie di classe borghese progressista, una specie di genitori del PD, diciamo, che appunto adottavano questi bambini prodotti in laboratorio e per crearne una sorta di bravi cittadini, insomma. Se non che in tutta questa situazione alcuni bambini, ragazzi oramai, insomma, adolescenti e post-adolescenti prodotti in laboratorio appunto, avevano trovato una loro via di rivolta, insomma, di ribellione, e si era creato questo gruppo, diciamo, guerrigliero in qualche modo, perché faceva anche degli attentati antitecnologia, che si chiamava appunto Ronia Rossa, figli della provetta. Tutto è un bel libro, tra l'altro al tempo ho pensato, beh, però anche rivolgere questo tipo di riflessioni così avanzate, insomma, ai ragazzi è interessante. Ho ripensato a questo libro qua, letto appunto mille anni fa, leggendo un articolo di una giovane che si chiama Arianna Cavigioli, che un articolo che è comparso dunque su un sito che si chiama La Fionda, su un blog che si chiama La Fionda, il cui titolo è Produzione in serie di esseri umani, per quanto tempo ancora rimarrà solo una distopia? E appunto questo articolo affronta questa questione delle tecnologie applicate alla vita, diciamo, e alla riproduzione della vita. Affronta appunto il discorso dei processi di artificializzazione della vita degli umani e anche critica il fatto che molto spesso si lasci l'opposizione a questi progetti transumanisti, la si lasci a cattolici, al Vaticano in pratica, ai cattolici e ai reazionari. Allora, così vado a leggere alcuni pezzetti di questo articolo interessante. Ci parla di un video, questo articolo, un video che mette in scena appunto un ipotetico futuro, ma in verità un futuro, insomma, per il quale ci sono già, diciamo, le risorse tecnologiche eccetera ci sono già presenti. Allora, i bambini potranno essere coltivati in uteri artificiali all'interno di laboratori. Attraverso un algoritmo viene selezionato l'embrione geneticamente superiore da impiantare in una capsula trasparente che simula l'ambiente uterino. Ogni utero artificiale è pervaso da sensori per monitorare il livello di ossigeno del sangue, il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la frequenza respiratoria e rilevare eventuali anomalie genetiche. Tramite un'app i genitori possono conoscere in tempo reale e comodamente dal proprio smartphone lo stato, o meglio i parametri, di salute del bambino e scegliere suoni vocali o musicali da trasmettere nella capsula uterina. Inoltre, l'utero artificiale è dotato di telecamere a 360 gradi e indossando un visore è possibile vedere, toccare e udire quello che percepisce il feto nell'utero artificiale. Una tuta, simile a questo visore, invece, consente di sentire i calci e i movimenti compiuti dal bambino, nutrito al meglio con ormoni, fattori di crescita e anticorpi tramite un cordone ombelicale digitale. Allora, questi laboratori che, diciamo, producono questo tipo di esperimenti si chiamano Ectolife e garantirebbero la produzione di 30.000 bambini all'anno. Ci dice questo articolo della Arianna Cavigioli che, insomma, 30.000 bambini all'anno sono un ottimo risultato se si vuole elevare il numero di nascite in paesi che soffrono di decrescita demografica, come il Giappone, la Bulgaria e il Sud Corea, ad esempio. Allora, la retorica che sottostà a questo progetto transumanista è filantropica, ovviamente, cioè permettere alle madri a cui è stato rimosso l'utero a causa di malattie tumorali o altre complicazioni di oltrepassare gli iter burocratici della maternità surrogata. Quindi praticamente questo tipo di progetto è un ulteriore step rispetto alla maternità surrogata, che è già una forma di espropriazione. E appunto questi diciamo uteri esterni, insomma questi uteri artificiali e questo modo di mantenere in vita e far crescere, insomma, dei feti è uno step successivo e anche in qualche misura diciamo che vorrebbe essere quasi politicamente corretto, nel senso che va oltre il dribbla, diciamo, il discorso dello sfruttamento eventuale delle donne che appunto prestano il loro corpo per la maternità surrogata. Ecco, tutta questa retorica filantropica è naturalmente costruita ai fini della sponsorizzazione di un prodotto che si punta a rendere disponibile per ogni coppia o anche per ogni singola persona interessata o interessato. Allora, il profitto però non si ferma qua, dato che un sistema di nascite di questo tipo andrebbe a tessere reti tra investitori in campo farmaceutico, ad esempio per le sostanze nutritive fornite ai feti, e ad eventuali terapie rivolte agli stessi, poi in campo tecnologico per le strutture biotecnologiche impiegate e in campo comunicativo digitale per le app di monitoraggio e per i tutori e i sensori e le tute virtuali, no? A ciò si aggiunge l'enorme quantità di dati medici e comportamentali che i dispositivi coinvolti possono potenzialmente immagazzinare e successivamente, tutele della privacy a parte, trasformare in valore. Ecco, questo articolo appunto parla poi delle conseguenze, no, diciamo, di questo tipo di manipolazione del vivente. Si crea, diciamo, un nuovo modello di genitorialità. E un modello di genitorialità che si basa su risultati laboratoriali e app già in uso per monitorare lo stato di salute del bambino fuori dall'utero. Quindi questi progetti sono ancora futuribili, però diciamo gli elementi tecnologici per la loro realizzazione ci sono. E vabbè, poi parla appunto l'articolo di un altro progetto finanziato dall'Unione Europea con 3 milioni di euro, il progetto Perinatal Life Support, che punta a realizzare un supporto vitale perinatale che sarà funzionante entro 5 anni. Praticamente questo progetto dovrebbe supportare la vita dei feti pretermine, cioè i feti che che arrivano alla 22esima settimana, quindi praticamente circa 5 mesi, feti di 5 mesi che non potrebbero vivere fuori dal corpo della madre. Però tramite questo progetto appunto di supporto vitale perinatale, questi feti possono essere traslocati in un utero artificiale simulato e praticamente ci dicono, insomma, ci dice questo qua che ha fatto questo video e da cui poi l'autrice dell'articolo ha tratto queste notizie. All'interno di questo utero artificiale simulato non sarebbero garantite solamente le caratteristiche biologiche, quali la presenza di liquido amniotico, cioè di uno pseudo liquido amniotico e di sostanze nutritive, ma i feti godranno di sensazioni tattili, uditive, olfattive, paragonabili a quelle del grembo materno. Chiaramente, vabbè. In questo progetto i test sugli animali, ecco qua, non saranno contemplati perché manichini stampati in 3D e dotati di un vasto range di sensori permetteranno, insieme a modelli computazionali e simulazioni computerizzate ad hoc, di testare e monitorare tutti gli aspetti salienti della gravidanza prima di immaginare un primo test sull'uomo. Quindi, come vi dicevo prima, anche qui una sorta di political correct, in quanto non si fanno i test sugli animali ma sui manichini in 3D, e quindi la grande, diciamo, mistificazione di queste tecnologie diventa sempre più capillare, ecco. E vabbè, allora, di questo fatto qua, questi uteri artificiali, insomma, che permetterebbero la vita fuori dal corpo materno a partire dalle 22 settimane, e questo, la novità, diciamo, di questo, lo chiamano biobag, anche questo utero artificiale, la novità è che non si tratta dell'estensione dell'attuale incubatrice, no? Adesso, quando un bambino o una bambina nascono prematuri, e prematuri come mesi, ma anche con caratteristiche, diciamo, di sviluppo prematuro, ci sono le incubatrici che permettono a questi bambini di superare, diciamo, il momento di crescere ancora un po' prima di poter stare a contatto con la madre. Poi anche durante l'incubatrice in realtà stanno parzialmente a contatto con la madre, ma prima di, diciamo, uscire nella vita vera e propria. Invece questi biobag non rappresentano appunto una estensione dell'incubatrice, ma sono hanno la capacità di sostituire completamente la funzione umana, no? In quanto per dire, un bambino di 22 settimane non potrebbe stare in una incubatrice, non basterebbe un'incubatrice, no, sarebbe destinato a non poter sopravvivere, mentre il fatto di poter far sopravvivere appunto i feti già a partire da 22 settimane in uteri artificiali permette di fare a meno del corpo umano, e specificamente del corpo umano femminile. E quindi questo, ci dice questo articolo, rende questo esperimento, questo biobag appunto, un passaggio nel regno dell'automazione. L'articolo è interessante perché poi sviluppa ulteriormente la questione, e cioè ci fa notare che, spostando la viabilità, cioè la possibilità di rimanere in vita fuori dal corpo materno, il feto non può vivere, no? All'esterno del corpo materno. Difatti, per questo lo statuto di persona affibbiato al feto, che appunto è tipico patrimonio del Vaticano, ma anche dei pro-life, insomma, e comunque degli invasati che vanno contro l'autodeterminazione delle donne, appunto, dicevo, lo statuto giuridico di persona dato al feto non ha alcun senso, in quanto il feto vive in simbiosi appunto con il corpo femminile che lo porta in sé, e tra l'altro tra madre e feto si sviluppano relazioni, insomma, prenatali ovviamente. E ci dice questo articolo, cioè ci fa riflettere sul fatto che, spostando questa possibilità, diciamo, di uscita dal corpo verso la fase embrionale, sempre più indietro, Questo fatto compromette seriamente anche la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza della donna, perché il feto, diciamo, diventa autonomo sempre prima, e quindi le settimane che sono previste, diciamo, per la possibilità di un'interruzione volontaria di gravidanza, in qualche maniera si svaporano, si volatilizzano. Ecco, e poi ancora ci dice questo articolo: spostiamoci ora fuori dall'utero per dare uno sguardo alla digitalizzazione del sapere genitoriale tramite app e dispositivi che monitorano lo stato di salute del bambino. Possiamo citare almeno due esempi già esistenti di app. Allora, Bebè Più, che permettono ai genitori, una volta inseriti i dati sensibili del neonato, di conoscere le sue fasi di crescita, i suoi bisogni, le sue tendenze, espressi tramite parametri ovviamente standard. Oppure Baby Connect, un tracker all inclusive per lo sviluppo del bambino, che registra sonno, poppate, pannolini, umore del bambino in un'interfaccia che consente di scambiare informazioni in tempo reale. E ancora più recente, il software alla base dell'app Tata Digitale, che si prefigge l'obiettivo, tramite la registrazione sonora del pianto neonatale, di decodificarne la natura, indicando al genitore se si tratta di fame, sonno, colichette, dolore fisico o richiesta di attenzione. Quindi siamo di fronte alla volontà di standardizzare e digitalizzare un sapere pratico, soggettivo e legato all'esperienza diretta, come quello della crescita figliale, legato a un cospicuo ricavo economico. Valore economico che si misura soprattutto attraverso l'immensa qualità di dati raccolti, qualità e quantità di dati raccolti, una miniera d'oro nei tempi che corrono. Allora, sì, l'articolo appunto poi trae delle conclusioni che sono interessanti e condivisibili a mio parere. Cioè dice: dunque, quale analisi per questo transumanesimo che si vorrebbe estendere persino alla creazione di esseri umani in laboratorio? Dove sta il profitto e qual è il conseguente modello sociale che ne deriva? Qui siamo addirittura oltre alla mercificazione del corpo femminile impiegata nella maternità surrogata. Possiamo quasi dire, aggiungo io, che il capitalismo non ha nemmeno più bisogno del patriarcato. A questo punto, diciamo, appiattisce, uniforma tutto e non ha più nemmeno bisogno di corpi di donne da spremere, diciamo, da sfruttare, da sulle quali speculare, da mettere a profitto. Allora, ripeto perché mi sono persa, siamo ben oltre alla mercificazione del corpo femminile impiegata nella maternità surrogata. Proprietà biologiche esclusivamente femminili sono espropriate per creare un ambiente, l'utero artificiale, consono alla coltivazione di esseri umani. Se surrogare etimologicamente significa agire per altri, ed è infatti la madre biologica, spesso denominata in modo sminuente portatrice di embrione, che si fa carico del fardello della maternità, in un sistema natale simile Ectolife, le azioni della gestazione e della gravidanza sono delegate interamente a un dispositivo biotecnologico di proprietà privata. Il laboratorio fabbrica trasforma completamente il processo di nascita in un'operazione tecnica. L'embrione è un prodotto da selezionare, migliorare, rifiutare o trasformare. Inoltre, la possibilità di procreare, uno dei pilastri su cui si basa la differenza sessuale, non è più prerogativa del corpo femminile, ma è affidata a un entourage medico al servizio dei capitali biotech e farmaceutici. E per finire veramente, e cosa comporta in termini sociali l'artificializzazione e la digitalizzazione della gravidanza? Problematiche psicologiche e mediche connesse al coinvolgimento del corpo nella fase del concepimento, ma anche il fondamentale diritto ai mesi di maternità retribuita è trattato come vero e proprio ostacolo per l'affermazione economica di quel prototipo umano costantemente produttivo e mai a riposo. Il modello sociale che ne consegue, che rappresenta al contempo l'esca perfetta per la sua affermazione, è la fuoriuscita dal proprio corpo di eventuali difficoltà, complicazioni, stress, lesioni, che insieme però al bagaglio esperienziale ed emotivo, inspiegabilmente magico della gravidanza, ne rappresentano le caratteristiche costitutive e reali. Eliminare il rischio potenziale di essere malati, avere complicanze gravi o sfiorare la possibilità di morte sono il grimaldello propagandistico su cui fondare un tecno uomo invincibile e sfruttabile in ogni momento dal capitale. Better. Allora, 21 e 21 di giovedì 12 gennaio, Zernis Magnetic, siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi. E allora, così come prima dei saluti e dei contatti che vi verranno dati poi dalla regia, diamo così un breve aggiornamento sulla situazione di Alfredo. Diciamo, gli aggiornamenti sul stato di salute risalgono a un paio di giorni fa, da parte della dottoressa sua di fiducia. Su Radio Onda d'Urto c'è stato anche una piccola diretta, insomma, dove lei spiegava direttamente, era appena stata a visitarlo e quindi spiegava la situazione anche. Niente, insomma, chiaramente ha perso ulteriore peso, siamo quasi a 90 giorni di, oltre 83 giorni di sciopero della fame. La dottoressa diceva che comunque ha forza, è ancora, insomma, in una condizione abbastanza buona, e parlava di questo miele, insomma, che riesce ad assumere, che essendo un antibiotico naturale gli permette di, insomma, gli fa del bene, e che è riuscita a fargli utilizzare un colluttorio che gli sbirri non volevano far passare, invece è riuscita a farglielo utilizzare, che gli ha dato un giovamento, perché chiaramente indebolendole il fisico e il sistema immunitario si viene attaccati soprattutto nel cavo orale da cose opportunistiche, insomma, da infezioni, perciò questo colluttorio particolare guarisce queste infezioni e dà giovamento, quindi la dottoressa appunto ha detto che era contento di questo, cioè di questo giovamento, e quindi insomma sì, la situazione è abbastanza sotto controllo. E proseguono ogni mercoledì e ogni domenica i presidi a Bancali sotto il carcere. Anche ieri c'è stato un presidio e c'è stata anche la radio blackout, ha rimbalzato, diciamo, durante la trasmissione ACAB ha rimbalzato questo, se si volevano mandare messaggi eccetera, dediche, e comunque Alfredo riesce ad ascoltare, sembra, da dentro questi momenti dedicati a anticarcerari, e dedicati a lui, a tutti i prigionieri e le prigioniere, e quindi insomma la lotta va avanti. E ricordo così velocemente un appuntamento. Allora, per domani ci saranno due appuntamenti in Trentino. Alle 10.30 al Tribunale di Trento un presidio solidale con Agnese, Juan, Stecco, Massimo, contro l'attacco appunto repressivo senza precedenti al movimento anarchico, contro le misure cautelari senza fine e le condanne praticamente a vita per i compagni, contro lo stato di guerra, l'attacco alle condizioni di vita e di lotta, a fianco dei nostri compagni accusati di aver lottato contro il carcere e la repressione, di aver portato solidarietà a chi vi è sottoposto, e naturalmente a fianco di Alfredo in sciopero della fame dal 20 ottobre. La stessa giornata, cioè domani, venerdì 13 gennaio, alle ore 20, ci sarà questo incontro pubblico a Rovereto, invece, organizzato dal Circolo Cabana, Alfredo non deve morire, incontro pubblico sul 41 bis con l'avvocato Flavio Rossi Albertini. E sempre domani, che venerdì 13 gennaio, ci sarà anche una manifestazione di piazza a Genova nel pomeriggio, e poi il 15 gennaio a Torino, 16 che è sabato, poi domenica 16 gennaio a Milano, E vabbè, poi il 21 gennaio a Marina di Carrara e avanti, insomma, ci sono continuamente iniziative, anche azioni dirette. E voglio ricordare, mi pare giusto ricordare anche, che da ieri anche Pozza, appunto compagno del Trentino, è in carcere a Spini di Gardolo come Rupert, sottoposto a regime di semilibertà. E concludo, prima di salutarvi, con questa frase di Alfredo: ai servi del potere dico una cosa sola: potete tenermi in galera per il resto della vita, ma rassegnatevi, non riuscirete a togliermi la coerenza e il rispetto di me stesso, né tantomeno il piacere di combattervi. Alla prossima, ciao. Bene, lasciamo in sottofondo questa band che si chiamano Serca, e anche volevo, insomma, dire che prima tra vari passaggi di interventi avrete notato che non c'erano quelli che abbiamo ascoltato a lungo, ovvero i Chumbawamba, ma delle band punk hardcore, che sono tutte, cioè, anzi io ve le dico lo stesso per ordine, che abbiamo ascoltato, magari non ve le ricordate, erano i Compromise is Defeat, i A Testa Bassa e poi i My Own Voice. E comunque tutte queste band, che probabilmente ce ne ascolteremo una ancora dopo, sono tutte prese da una compilation uscita nel 2014 che si chiama Adios Prison, ed è un hardcore benefit compilation, così a sostegno dei prigionieri anarchici incarcerati. Questo usciva nel 2014 e, come ho detto, Adios Prison, Fuoco alle carceri. Ci sono all'incirca, ci sono 18 band all'interno, con ogni band ha inserito un brano, e comunque è coprodotto da 4 etichette che sono all'interno del campo delle autoproduzioni punk hardcore, e anche da una fanzine vegan. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane da Udine. Andremo avanti ormai è finita, di solito dalle 20 alle 21.30. E vi ricordo i nostri contatti se volete scriverci, ovvero contatto di posta elettronica liberetutti@autistica.org. Se poi invece volete scriverci nel solito consueto metodo cartaceo, potete farlo intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre vi ricordo che ogni puntata, come quella odierna ma anche quelle delle volte scorse, potete ascoltare all'interno del blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre, se ci state ascoltando adesso e per il prossimo giovedì avete un po' di difficoltà con i tempi, comunque, o con la radio, siete che ne so dove, potete ascoltarci in streaming andando nel sito ovviamente di Radio Onde Furlane. Bene, siamo giunti proprio al termine della trasmissione, anzi abbiamo quasi sforato, e sicuramente ascolteremo adesso un brano dei dei Gandhi Kamikaze. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.